Deborah, ti manco? Ti manco? Mi sento un po' spaesata senza di te. Siamo alla lettera D. Vedi che sono sempre fissata. Deborah non c'è e mi viene ce l'ho in testa. Dopo questo brano tratto dalla Bella e la Bestia, Nicoletto, ho visto che tu hai presentato. Che mi desti della... No, non siamo ancora arrivate a questo. Ah, sono solo io che sono gnocca. No, non volevo dire. Sì, questo, sì, ho sentito però, dal tono. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Le tue vacanze romane, la cartolina non me l'aspettavo, ma almeno una mail, due sms, un paio di tweet. Allora, vacanze ieri è una parola grossa, però ti ho pensata perché tu sei sempre al centro dei miei pensieri, ma non ce l'ho fatta a scriverti, ero proprio letteralmente sopraffatta dagli impegni. E dai, impegni a mangiare cacio e pepe concimati, no, oppure a scrivere a Matteo. Chiocciola, sì, perché si deve dire Matteo. Sì, esatto. Chiocciola governo.it. Ti sento con la pronuncia toscana molto a tuo agio. In realtà, dal cacio e pepe, magari fossi andata, non ho avuto tempo neanche quasi di mangiare ieri, ma questa voglia di scrivere, concentriamoci un po' su questo. In questa era del 2.0 sta contagiando tutti. Ho il sospetto che per molte persone sia più facile scrivere che parlare, anche se tra scrivere una mail e scrivere un racconto o un libro c'è una bella differenza, no? Che hai ragione, hai ragione. Però oggi parleremo proprio di scrittura insieme al nostro amico Andrea Vitali, che è qui in studio con me, anzi accanto a me. Me lo sono tenuto proprio vicino. Ma io ce l'ho di fronte. Andrea, tu cosa scriveresti? Intanto ciao. Ciao, ciao. Buongiorno. Buongiorno. Cosa scriveresti tu a Matteo? Di rileggersi Pinocchio. Una buona lettura che può insegnare tante cose sulle bugie e non. E con questa track l'abbiamo messa a posto. L'abbiamo messa a posto. E allora, però, non è solo Andrea Vitali il nostro unico ospite questa mattina. Preannunciavamo uno studio molto piacevolmente affollato. Salutiamo Maria Giovanna Luini, scrittore, medico, comunicatore scientifico all'Istituto Europeo di Oncologia a Milano. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno. Ben Buongiorno. Ritrovata. Come mai, secondo lei, ci sono delle persone che hanno il tastino facile e scrivono fiumi di sms, di tweet, ma poi non riescono magari a spiccicare una parola, dottoressa? Perché non si rendono conto che anche la scrittura conseguenze. Questa è la risposta più istintiva. In realtà la scrittura ci sembra una cosa con meno barriere, o forse con più barriere, quindi ci sentiamo più liberi. Diciamo anche cose che normalmente non diremmo. È un po' pericoloso. Cioè, abbiamo comunque anche un pochino di tempo per riflettere su quello che dobbiamo scrivere, magari il parlare ti mette. Sarebbe subito bello se fosse così, ma se constatiamo ciò che c'è scritto nei social network non c'è molto pensiero dietro. 800 24 00 24, se volete iniziare a scrivere e a chiamare potete scrivere al 349 238 6666, mentre il nostro numero verde è a disposizione. In studio con noi oggi c'è anche una collega e amica, Francesca Del Rosso, per gli amici Wondi. Ciao. Buongiorno, ciao. Ciao, ciao. Iniziamo a dire che non si può essere Wondi per caso, bisogna avere la stoffa e tu la racconti così. Sono Wondi per tre semplici motivi. Primo, lo sapete già, la mia fissa per la supereroina nata da bambina è mai superata. Secondo, a poco più di 20 anni i miei amici Marco e Alessandro hanno trasformato la mia fissa in un soprannome e questo nomignolo nessuno me lo ha più tolto di dosso. Terzo, negli anni 90 il Wonderbra era un must, un oggetto quasi magico. Con tutte le sue imbottiture davanti e di lato, trasformava in una donna prosperosa anche un asse da stiro. Ricordo che lo tenevo in un cassetto come un gioiello prezioso da indossare solo per occasioni speciali. Ora che sono alla soglia dei 40, oddio, non mi serve più un reggiseno push-up in silicone o imbottito. Oggi, non l'avrei mai pensato, ho un seno che sta su da solo e con un top scollato faccio la mia porca figura. Così inizia il tuo libro, Francesco, il titolo completo è Wondi, come si diventa supereroi per guarire dal cancro, ed è edizioni Rizzoli, e racconta proprio la tua esperienza. Sì, esatto, io ho avuto 3 anni abbastanza difficili, ecco, se vogliamo usare un eufemismo, perché ho scoperto di avere un tumore al seno, ho subito una mastectomia, ho fatto poi una ricostruzione plastica e poi dopo un anno me ne hanno trovato un altro. Nel frattempo giustamente ho scoperto anche di avere un bellissimo gene BRCA1, insomma praticamente le ho avute tutte. Dopo aver vissuto queste esperienze ho deciso che era il caso di raccontarlo, non tanto per me, che comunque l'avevo superato anche abbastanza bene, devo dire la verità, ma per gli altri, perché probabilmente anche condividere un'esperienza così difficile, che però è stata superata con il sorriso, ho pensato potesse essere una buona cosa anche per chi magari fa un pochino più fatica. Assolutamente. 3 interlocutori molto diversi al nostro tavolo questa mattina, ad ognuno però la domanda: cosa vi ha fatto scattare la passione per la scrittura? Un'esperienza molto forte per Francesca, ma c'era già un desiderio insito in te, Francesca, oppure è stato il desiderio di portare nero su bianco quello che hai vissuto? Beh, diciamo che essendo già giornalista da 20 anni, la scrittura è sempre stata comunque un po' nel mio DNA insieme al BRCA1. Ho scritto altri libri che erano più di manualistica, quindi più di varia, e finalmente questo è stata un po' la mia sfida con la narrativa, che mi è piaciuto moltissimo, perché mi sono messa alla prova con un genere diverso, perché per quanto sia autobiografico è comunque un romanzo e quindi deve seguire anche alcune regole. Scrivere in parte ti fa prendere le distanze da quello che racconti, e quindi in questo caso anche dagli anni che ho vissuto. Dottoressa Luini, invece, dalla divulgazione scientifica alla scrittura creativa, il passo è breve? Brevissimo, perché in realtà io ho iniziato scrivendo, prima ho imparato a scrivere e poi a parlare più o meno da bambina. La differenza è stata iniziare a pubblicare nel 2006, e quindi la scrittura è sempre stata con me, così come è sempre stato con me il bisogno di occuparmi degli altri, quindi per me non c'è una scissione, è una cosa che va avanti, un completamente, molto bella. Sì. E invece ad Andrea Vitali come possiamo anche fare questa medico, domanda? Che ci infatti, sono medici che dall'ambulatorio alla scrittura? No, per me fu l'amore. Io cominciai a scrivere a 15 anni, scrivendo lettere d'amore alla mia prima fidanzata, che dopo 3 settimane mi mollò, grazie all'intensità delle mie lettere d'amore. Questo avrebbe dovuto insegnarmi l'utilità della scrittura, no? Invece no, invece ho insistito, perché essendo di Lago sono un po' crapone, ed eccomi qua, in questo gineceo. Vedi, ha iniziato per amore, questo vedi perché arem. Mi piace. Però come per il calcio, per gli altri sport, anche per la scrittura credo ci voglia un campione che faccia venire un po' la voglia di scendere in campo. Allora oggi vi chiediamo: qual è lo scrittore che vi ha fatto venire la voglia di scrivere? 800 24 00 24 al nostro numero verde, oppure potete seguirci su Twitter, Facebook, mandarci una mail se non volete mandarci un messaggio al 349 238 6666. Non valgono le squadre, potete scrivercene massimo 2. Allora, Francesca, qual è? Inizia a dare il buon esempio. Wondi. Wondi. Qual è lo scrittore che ha fatto scattare il click a Wondi? Forse sono partita più da un poeta. Cioè, mi piaceva moltissimo Ungaretti, e quindi inizialmente sono partita con le poesie, poi mi sono fermata un po', probabilmente come Andrea, e ho iniziato a scrivere poesie che erano anche poesie d'amore. Ho capito che non avrebbero sortito alcun effetto, no, ho visto che non sortivano proprio nessun effetto, neanche ho iniziato, diciamo, ad avere la storia d'amore. Allora sono passata alla narrativa normale, ecco, scrivevo racconti, però la poesia è Ungaretti. Stato, sì. Dottoressa Luini? Simenon nei romanzi però. Non in Maigret. I romanzi di Simenon mi danno molto in termini di scrittura narrativa, rappresentano qualcosa di peculiare. Di Andrea Vitali, La modista, che è un mio, è una mia passione. Anche una mia passione è stata La modista. Sì, eh? Sì, quella vera, però, non quella vera. Immaginavo. Quella vera, e che non aveva niente a che fare con quella che non aveva poi apprezzato le tue lettere. No, assolutamente no. Però aveva le caviglie sottili. Molto sottili. Perché è vero, questo è un dettaglio. Sì, sì, sì, questo è un dettaglio, è una delle cose più belle. Ma il modello di scrittura di Andrea Vitali qual è stato? Penso Giovannino Guareschi, il primo. Sì. Quindi abbiamo, come dire, dei retroscena dietro a questi scrittori assolutamente inediti. Per chi invece stesse coltivando il sogno della scrittura, qua affrontiamo un po' tutte le problematiche, no? Con cui ci si deve scontrare quando si ha la sensazione di avere un capolavoro tra le mani, ma magari nessun editore ti dà retta. Oggi credo che tra l'altro proprio il mondo dell'editoria sia particolarmente affollato di queste opere prime, di difficile anche esame. Alessandra Tedesco, buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti. In questo studio affollatissimo abbiamo anche la nostra collega che è conduttrice del Cacciatore di Libri su Radio 24 e ci dà qualche indicazione che gireremo ai nostri ascoltatori che appunto ritengono di aver scritto un romanzo del secolo, ma a quanto pare ogni editore respinge. Questa cosa mi stupisce sempre molto. Qui c'è Andrea Vitali, c'è anche Francesca Del Rosso, insomma sono due scrittori. Uno, perché vuole scrivere un libro? Prima domandatevi questo, perché se per lasciare qualcosa ai posteri uno dice beh faccio un figlio, però mentre quando si fa un figlio nessuno dice non mi piace far sesso, non faccio sesso ma vorrei avere un figlio. Quando si tratta dei libri dice ah no ma io non ho tempo di leggere, non leggo però ho scritto un libro, quindi già domandatevi questa cosa perché è piuttosto surreale. Allora, si può pubblicare oggi un libro in tantissimi modi, col self-publishing, sia cartaceo che digitale, con ebook, inviando il classico manoscritto, ormai lo chiamiamo così, chiaramente non è più scritto a mano, alle case editrici. A cosa stare attenti? Abbiamo preparato una specie di piccolo decalogo. Caso Deborah ti venisse allora, la voglia. Venisse la guarda, voglia. Proprio oggi già avevo questo fremito che non so se riuscirò a contenere. Se anche tu dovessi avere il classico romanzo nel cassetto, un'espressione che detesto, ma andiamo avanti. Allora, pubblicazione cartacea. A me piace romanzo, no, romanzo cassetto. Del cassetto. Il romanzo del PC. Andrea Vitali, tu lo tieni nel cassetto il romanzo? Tutti. A me piace, vabbè, mi sento perché nel cassetto tengo le cose che un pochino più segrete, quelle che accarezzo. Vabbè, era una frase fatta, andiamo avanti, dai. Allora, chi vuole pubblicare in modo cartaceo, tradizionale, con una casa editrice, manda il manoscritto e la casa editrice chiede di acquistare un minimo di copie. Per esempio dici le prime 200 copie te le compri e poi le altre sulle altre guadagnerai. Sì, allora se ti compri le prime 200 copie e le paghi 15 euro hai speso 3.000 euro. Quindi di fatto hai pagato per pubblicare il tuo romanzo. Per quale ragione? Francamente non lo concepisco. Anche perché è difficile poi riuscire a vendere tante copie. Considerate che il primo in classifica adesso, in questo momento, chi è primo in classifica vende in media 10.000 copie a settimana. Quindi insomma venderne 200, 300, 400, 1000 non è poi così facile. Poi altra cosa che chiedono alcune case editrici non diciamo poco serie, ti daremo le royalties, cioè i diritti d'autore, solo dopo per esempio la copia numero 200. Ecco, è come pagare di fatto, perché tutto il guadagno che avviene sulle prime 200 copie va solo alla casa editrice e sostanzialmente non si incassa molto. Anche perché quando ci si rivolge a questi editori non si ha la distribuzione, cioè il libro spesso non arriva in libreria. Quindi chi è? Lo devono vendere personalmente agli scrittori, ad amici e parenti. A questo punto devo spendere 3.000 euro per farlo leggere ad amici e parenti, mi sembra abbastanza surreale. Devo anche organizzare delle festicciole, perché sennò amici e parenti quando mai? Mi sembra abbastanza surreale. C'è tra l'altro un sito molto interessante che si chiama Scrittori in Causa, che racconta appunto tutte queste vicende ed è molto divertente. Ma andiamo al self-publishing digitale, che ormai va molto di moda. Scrivo un ebook, lo voglio pubblicare su una piattaforma. Va benissimo, detto che uno su mille di questi manoscritti è valido. Detto questo, non voglio sembrare insomma un cerbero, ma è così, perché non c'è lavoro di editing. Insomma, anche Philip Roth ha bisogno di un editing. Di un editor, figuriamoci, insomma, uno di noi abbiamo bisogno di correzioni. Allora, in questo caso circa il 50% del prezzo dell'ebook va all'autore, questo è corretto. Se è meno del 20-30% non è più corretto. Non bisogna pagare una quota d'ingresso per pubblicare il proprio ebook su una piattaforma. Se ti chiedono 200-300 euro per pubblicarlo su una qualsiasi piattaforma e poi ti danno la percentuale, non va bene. Detto questo, ci sono casi che sono stati eclatanti di self-publishing con gli ebook, per esempio 50 sfumature di grigio era stato pubblicato da Yale James attraverso un self-publishing con ebook. Poi, ultima cosa che vi dico, chi si rivolge agli agenti? Allora, quando ci si rivolge a un agente, ecco, adesso Vitali mi guarda perché insomma, giustamente lui è uno scrittore affermato. È uno scrittore affermato. Almeno sceglietelo bello. Allora, l'agente sceglietelo bello, ma sceglietelo con cura, perché gli agenti letterari a volte chiedono un pagamento per leggere il manoscritto. Però, corretto, perché comunque c'è un lavoro, impiegano del tempo. Insomma, se Andrea Vitali va da un agente, certo non gli chiedono i soldi, ma se ci vado io probabilmente sì, a parte una decina di agenti molto, insomma, importanti, gli altri che... Questa quota deve aggirarsi fra i 150 e i 300 euro, non di più, perché altrimenti vi stanno assolutamente fregando. Poi, questa quota che voi pagate alla gente, in genere deve essere scalata se poi la gente vi prende, diciamo, sì, come cliente. Se invece nel momento in cui vi prende vi chiede altri soldi, dice no, ma adesso io inizierò a proporre il tuo romanzo. No, perché la gente prende già una percentuale sui libri che voi venderete. La percentuale della gente oscilla fra il 10 e il 20%, dipende dalla gente, dipende dallo scrittore, dipende dal libro. Caspita. Mi piace anche molto il piglio con cui Alessandra ci ha dato questo vademecum, sì, perché tutte fregature praticamente. No, bisogna stare attenti. Il percorso è allora bisogna è pensare che non siamo dei geni, non siamo tutti Umberto Eco, insomma, adesso ne ho citato uno a caso. Quindi bisogna essere un pochino più umili, pensare che un romanzo è veramente un romanzo anche dopo che ha avuto un lavoro di correzione. Quando io dico uno su mille valido, semplicemente perché con l'editor, che è quello che come dire ci fa da specchio, anche Andrea Vitali c'ha l'editor, cioè non è che quando pubblica Andrea Vitali tutto quello che viene dalla sua penna è perfetto, sì, giusto Andrea? No, assolutamente, io ho contatti settimanali col mio editor, tutte le settimane lo sento. Dove interviene l'editor nell'opera di Andrea Vitali? Generalmente interviene su alcuni personaggi che magari io dimentico, tralascio, descrivo meno, e mi fa notare magari questo è interessante, questo è simpatico, dagli di più il dialogo, qui allungano un po' perché è bello, divertente, ecco, su quelle cose lì. Sui congiuntivi per intanto ancora no. Ah, ecco, meno male. Io volevo fare un'altra domanda ad Alessandra. Perché è un po' sotto esame, Andrea? Allora, esami anche per gli scrittori donne attorno non finiscono mai. Abbiamo toccato il tasto dolente della gente, e poi, ma questo lo traccia. No, ad Alessandra volevo chiedere, ammettendo che si voglia utilizzare il canale tradizionale dell'editore tradizionale, quindi niente ebook, no? Un altro suggerimento che io immagino possa essere di buon senso è di non mandare a pioggia il proprio manoscritto a 18 editori, no? Cercare di fare una scelta professionale. Identificare prima che, ho scritto un giallo, è inutile che lo mando ad Adelphi, perché Adelphi ti pubblica Simenon, ma non ti pubblica il giallo dell'italiano esordiente. Allora identificare la casa editrice che ha una collana dedicata al genere che abbiamo scritto. Se ho scritto una cosa ironica, una chick lit, non la propongo a un editore che non pubblica chick lit. Certo, anche Wondi vuole intervenire. Certamente. Dai, Wondi. Vorrei dare un consiglio semplicissimo: rileggere 100 volte il proprio manoscritto prima di inviarlo e magari farlo leggere a persone che riteniamo abbastanza intelligenti e sincere per dirci quello che pensano, perché è inutile farsi dare 100 no se va bene il no, piuttosto che proprio il silenzio assoluto da parte della casa editrice se prima non abbiamo già avuto un pochino di riscontri. Certo. E poi un po' in allo stile Wondi è accettate le critiche. Assolutamente. Dico lo stile Wondi perché proprio nel tuo libro viene fuori questo modo positivo di affrontare anche le situazioni difficili. Del tuo libro parleremo tra poco, ma insomma Wondi viene fuori anche lì, cioè non cercate di trasformare le critiche in qualche cosa che possa esservi d'aiuto per ritoccare questo posso dire manoscritto? Sì, si può dire posso manoscritto, dire, si dice il libro nel cassetto, ne ho uno, sai? Ce n'è uno, dottoressa Luini, un altro. Romanzo nel cassetto? Non è nel cassetto, è da un editore, la mia agente l'ha già dato all'editore. Ecco qua, quindi no, qua. Però è molto interessante questo. Io vorrei solo aggiungere che chi davvero ama scrivere e sa scrivere accetta le critiche, legge tanto e non molla mai. Io sono arrivata a pubblicare il romanzo con Cairo dopo una gavetta con editori piccoli ma senza mai pagare, perché non erano editori di quel genere. Vale la pena di fare la gavetta, vale la pena di leggere le critiche e applicarle se si sentono vere, e vale la pena di migliorarsi perché si arriva. A lei quali sono quelle che sono arrivate appunto? I dialoghi. I dialoghi, sì, sui dialoghi con l'editor ho sempre lavorato molto, anche nel caso del Maledentro, con l'editor di Cairo, e comunque vale la pena perché mi rendo conto che i commenti di un buon editor sono commenti che migliorano la scrittura. Allora, comunque non si scrive solo per diventare scrittori, si può scrivere anche per il piacere di scrivere, no Andrea? Io dico di sì, Uno magari vuole fermare due idee su un foglietto, vuole prendere delle distanze. Non dare da questo suggerimento cosa. A Francesca, perché già nel libro racconta che praticamente riempie di appunti tutti i fogli che trova. E quindi attenzione stamattina, perché ce ne lascia qualcuno. Si può scrivere per tante ragioni, magari il famoso romanzo rimane nel cassetto e siamo contenti che stia lì. Non vogliamo, perché non ci sono, ci sono anche delle persone che scrivono e non amano farsi leggere. Non funziona? Ci credo. Funziona anche così. No, tu dici di no, ma perché tu sei uno scrittore. No, non ci credo. Va bene, io invece devo dire che sentiamo i nostri ascoltatori, magari non si fanno leggere da nessuno, solamente da amici proprio sinceri. E Piero, buongiorno, dalla provincia di Ascoli Piceno. Sì, buongiorno. Sì, io ho scritto per il piacere di scrivere intanto, e diciamo poi ho voluto pubblicarlo non avendo e non illudendomi di avere il capolavoro sotto mano. Non mi sono illuso, non ho cercato editori a destra e a sinistra, anche se poi in qualche modo li ho cercati, ma in ogni caso come ha fatto? Pagato, sì. L'ho pagato con un editore a un prezzo molto più basso del prezzo di vendita di 15 euro, cioè intorno ai 9 euro. Ho comprato i miei 200 e poi altri 100 pezzi e li ho distribuiti tra gli amici, i conoscenti, e spero che qualcuno lo legga. Ecco, chi lo ha letto... Quindi, insomma, scusi, posso dirle quanto lei ha speso per fare questo regalo ad amici e parenti? 9 euro per quante copie? 300 copie. Complimenti. La donna di denari non so se farà i conti, ma comunque sì, Piero, senti, si è tolto la soddisfazione. È contento. Non trovava un editore che lo pubblicasse in altro modo, si è pagato le sue copie. E Piero, lei è contento? No. Io sono contento. E dai, allora basta così, Piero, ha fatto bene. 800 24 00 24, adesso andiamo a sentire i mercati, sì. E subito dopo insieme con Wondi, Andrea Vitali, Giovanna Luini parleremo di scrittura, se ci piace scrivere, se volete diventare scrittori per professione o solo per diletto, e se non leggete, non fate leggere i libri che scrivete, anche se Andrea Vitali e Giovanna Luini non ci credono. Cuore e denari. Si crede che dopo la malattia tutto cambi radicalmente. Falso. Per vincerla devi amare alla follia la vita di sempre. Le cene fuori con tuo marito, le passeggiate con i figli pestiferi e i brindisi con le amiche. Devi rimanere te stessa. Così leggiamo nella quarta di copertina. Francesca, anche lo scrivere ti ha aiutato a rimanere te stessa, anzi forse a mettere qualche cosina in più. Beh, assolutamente. Consideriamo che io prima di scrivere questo romanzo comunque era da più di un anno che avevo anche un blog, era la mia prima esperienza da blogger oltre che da giornalista, che si chiamava Le chemio avventure di Wondi, sul sito di Vanity Fair. Il blog, dal blog, dall'esperienza del blog, sì, è nata anche il desiderio, la voglia di scrivere un romanzo. Quindi diciamo la scrittura mi ha sempre accompagnato anche in questi anni difficili. E come appunto c'è scritto anche nella quarta di copertina, ho scoperto, forse dopo questi 3 anni di vita impegnativi, ecco, che io volevo rimanere comunque nella mia vita di sempre, quindi con il mio lavoro, la mia passione per la scrittura, la mia famiglia. La Iena e Attila, quelli sono l'unica cosa, ripensando, che proprio non posso cambiare, perché il tumore spesso viene considerato come un punto di svolta o comunque considerata l'opportunità per cambiare vita. C'è chi decide di non vivere più in città e andare in campagna, chi non fare più il lavoro che sta facendo, andare a fare, non so, a Kathmandu, coltivatore di qualcosa, piuttosto che, ecco, cambiare marito. Di una nuova vita. Esatto, spesso io non ho voluto cambiare niente, per ora, di certo i figli sono l'unica cosa che effettivamente non potrei comunque cambiare, quindi Francesca ci ha dato un gancio perfetto per la domanda alla dottoressa Luini: il cambiamento radicale che si rende necessario per qualche donna che attraversa la stessa esperienza. Sì, le reazioni sono davvero molto molto diverse. Ci riflettevo al termine della lettura di questo libro, che tra l'altro trovo stupendo, Wondi. Le reazioni sono diverse. Ogni volta che affermo che esista un genere di reazione, poi ricevo decine di email o telefonate di protesta, perché in realtà non è così. Ognuno di noi reagisce a qualsiasi evento in modo peculiare, speciale, ed è bello così. Quindi anche le reazioni a una malattia così traumatica, che scardina certezze su di sé e sul proprio corpo, non possono che essere diverse. C'è chi ritiene che la malattia sia stata un'opportunità e chi invece mi dice: guardi, assolutamente non è vero, è stata una cosa negativa, io non la volevo e la maledico ogni giorno. Magari sono persone che adesso stanno molto bene dopo anni, però maledicono comunque quel momento. E quindi davvero è molto diverso. La cosa che secondo me una donna tra donne, una donna medico tra donne deve fare è stare ad ascoltare. Francesca, tu il libro l'hai scritto per te, ma soprattutto l'hai scritto, come anticipavi, anche per le donne. Io direi che è un libro che invece io consiglio anche agli uomini, perché aiuta a stare vicino ad una donna, anche ad una donna che non è malata di tumore al seno. È un libro che racconta la donna, ma soprattutto tu sei riuscita a così raccontare, a far capire quanto metterci un po' di positività, un po' di autoironia nella vita, nella specifico in quanto ti è accaduto, ma io direi proprio nella vita, può cambiarla radicalmente, può aiutarla, come dici tu, ad apprezzare quello che si ha. Però per sottolineare un po' questo stile Wondi che caratterizza il libro, tu ad esempio hai raccontato 10 cose da fare tra una chemio e l'altra, che è un momento molto difficile, Andrea, tu da dottor me lo confermi, sì, assolutamente. Per una donna si perdono i capelli. Anche per un uomo. Anche per un uomo, certo. E tu l'hai raccontato come un momento che si può affrontare magari coccolandosi un po' e soprattutto chiedendo agli altri una mano, perché nel tuo libro ricorre, no? Se non ce la fai da sola, chiedi agli amici, alle persone che ti vogliono bene, insomma il farsi aiutare. Sì, perché noi siamo abituati molto spesso a non voler chiedere aiuto, comunque abbiamo quasi un po' il timore di rivolgerci agli altri e dire che magari in quel momento non ce la stiamo facendo. Chiaramente in momenti come questi invece si impara a chiedere ed è assolutamente importante, perché poi ci sono tante persone vicino a te che non sanno come aiutarti. Basterebbe dire: vammi a fare la spesa o preparami delle lasagne per il figlio, per il marito, in modo che io non mi debba mettere ai fornelli, cosa che tendenzialmente comunque non faccio mai, anche quando sto bene. Ne parli tanto, apriamo e chiudiamo la parentesi. E invece per quanto riguarda il cosa fare tra una insomma Wondi non andrà a MasterChef, no, questo è scontato proprio. Se per questo neanche io e te, etero. No, io sì. Parla per te. Scusa. Nicoletta sì, te. Io no. Ecco, io vabbè. Devo dire che in radio non possiamo comunque in questo momento metterti alla prova, ma se vuoi facciamo una cosa extra. Ottimo, mi è piaciuta questa cosa, questa provocazione. Quindi insomma l'aiuto degli altri. No, e poi appunto il coccolarsi, per esempio, quando perdi tutti i capelli, per esempio per 6 mesi non vai più dal parrucchiere, quindi per esempio recuperi un bel po' di soldini, cioè tu dovevi andare a fare la depilazione dal parrucchiere, insomma recuperi, certo. Risparmi, allora quei soldi risparmiati cosa ne vuoi fare? Ma fatti un regalo, chiedi a una tua amica, dici: dai, portami in un bel outlet, un bel negozio, ti fai un bel regalo, ti dici che a ogni chemioterapia ti potresti fare un piccolo regalino, così una coccola, certo. E nessuno ti può dire niente, quindi mia madre ogni tanto dice: ma quanta roba ti stai comprando? Ma non poteva dire nulla, perché in qualche dice: mi faccio un regalo, 6 chemioterapie, 8 chemioterapie, 8 regali, così, e io non mi sono fatta mancare nulla, ecco. C'è una parte del tuo libro che a me leggendolo ha fatto molto riflettere, che è quello invece relativo alle 10 cose che non deve fare chi vuole aiutare il malato, appunto, che fa il paziente oncologico che fa magari la chemioterapia e che qualche volta arriva invece un po' proprio come l'elefante nel negozio di cristalli, tipo il messaggio del tutto inappropriato: sono qui, posso fare qualcosa, ma in realtà sono persone che sono ben distanti. No, poi magari sono veramente a Kathmandu, cioè, però se vuoi ti vengo a prendere i bambini che non ha mai visto visto e conosciuto, frasi completamente sconnesse dalla realtà, che quindi non hanno alcun peso se non il fatto di essersi tolti in qualche modo il pensiero, mandato il messaggino, oppure non mi sono fatta sentire in questo periodo perché non ti volevo dar fastidio, tu fatti sentire che poi al massimo ti dico che mi dai fastidio. Insomma, l'auto giustificazione mi lascia sempre un po' perplessa. Altre frasi terrificanti sono innanzitutto quelle che vi giuro che sono successe, non è perché insomma ne capitano di cotte e di crude, è: ah, tu hai un tumore al seno, cavolo, mia zia invece è morta di tumore qui qua, cioè l'elenco di tutti i malanni di tutti gli altri, oppure io sono stata peggio, perché c'è sempre una cosa, sempre di fare la competizione, gara. Sì, quasi per la serie, proprio, però io sono stata peggio, però io, mia sorella, che è successo, che dici vabbè, ma no, anche se non dobbiamo fare esatto la cartella clinica di tutti i familiari, va bene uguale. Una cosa divertente che racconto anche nel romanzo, perché l'ho trovata agghiacciante ma divertente allo stesso tempo, è stata un'infermiera che al primo esame del sangue durante il pre-ricovero mi ha detto: ma lei perché è qui? Guardi, mi devo operare. Ah, ma per cosa? È tumore al seno. Ah, pensi, anche mia madre e mia zia hanno avuto il tumore al seno. Io, ah cavolo, mi spiace. Insomma, ero lì col braccio anche appena arrivata in ospedale, mi dispiace molto, non sapevo che dire. E lei: sì, poi mia mamma ce l'ha fatta, mia zia invece no. No, benissimo, al 50%, bene. Una sì, una no, la ringrazio, sono uscita dall'ospedale dicendo: ma posso io sentirmi dire che devo ancora operarmi? Ma insomma, ne senti di cotte di crude, ecco. Senti, Francesca, hai citato un'infermiera, ma dato che qua abbiamo due medici, non anche i medici a volte sono... Si ammalano, ma sono soprattutto possono essere altamente, no? Possono essere curativi ma non curativi, brava, bravissima, ecco. Vedi, sicuramente che tu che scrivi hai le parole giuste. Allora, mi piacerebbe magari che tu raccontassi se ci sono stati dei momenti in cui il medico è stato per te un sostegno e il medico invece ti ha... Ma ho due momenti che vi posso raccontare. Uno, per esempio, quando mi è stato detto, ho trovato un oncologo molto bravo che mi ha messo proprio la mano sulla spalla e me l'ha detto nel migliore dei modi, con schiettezza, perché insomma è con onestà, come è già giusto che fosse, ma anche con forte empatia. E quindi io da quel momento ho capito che si sarebbe potuto instaurare un bel rapporto, quindi è giusto essere sinceri, ma anche dolci, ecco, nello stesso tempo. Altre volte invece ho visto dottori, per esempio mentre facevo la chemioterapia, quindi in queste sale in cui ci sono 10-15 persone che si stanno curando e ognuno con i propri pensieri, perché poi lì sei veramente solo sulla tua poltroncina ad aspettare che i farmaci vadano in vena, eccetera. Quindi è un momento anche un po' particolare. Medici che entrano e escono da queste sale senza neanche salutare, cioè entrano, lasciano il foglio, se ne vanno, come se fosse un ufficio della posta, magari un sorriso, magari un saluto. Un buongiorno a persone come te, perché un domani spero di no, ma potresti essere tu dall'altra parte. Quel sorriso potrebbe avere un significato per quella persona, perché non tutti hanno una forza di carattere per riuscire ad affrontare in maniera positiva anche queste cose, per cui basta un sorriso che ti può svoltare la giornata, e tornare a casa e dire: beh, però c'è stato sorriso, c'è stato un minimo di empatia, di cosa che spesso però non si vede. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. Abbiamo tantissime telefonate all'800 24 00 24. Quindi subito dopo le informazioni sul traffico, spazio alle vostre storie, ai romanzi nel cassetto, alle motivazioni che vi spingono a fermare un po' le vostre idee, i vostri pensieri su un foglio, e anche se volete avere consigli per diventare uno scrittore vero, perché no? Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta, naturalmente a microfoni spenti, poi proseguono le nostre conversazioni con tante sfaccettature, e allora diamo lettura ai messaggi dei nostri ascoltatori, perché stamattina ne abbiamo coinvolti in maniera piuttosto particolare sul nostro argomento, anche abbastanza curioso per Cuore e Denari, no? Però noi oggi vogliamo un po' focalizzare l'attenzione sulla creatività dei nostri amici che ci seguono da casa. Scrivere senza farsi leggere è come parlare da soli, scrive Alessandro. È una frase che io trovo molto bella, un'osservazione un'osservazione che trova. Ma se uno si scrive un diario, magari non è che io venga a farti leggere. Abbiamo il tutti mio ragione, diario. Però a me questo ragionamento è piaciuto. Mi vai a leggere quella di Fabio Volo? Sì, è qua giù in fondo. Cattivo. No, allora sì, nel senso che, vabbè, sai, la letteratura ha tutti i suoi esponenti e questo è un filone evidentemente particolare. Eccolo qua, il mio autore è Fabio Volo, perché dopo aver letto i suoi romanzi ho pensato, se è capace di scrivere romanzi lui, allora posso farlo anch'io. Perché non è così scontata. Perché non è così scontata. Esatto. Inizia a scriverlo, poi vediamo se sei Fabio, se riesci a diventare Fabio Volo. I suoi libri hanno fatto tanta compagnia. Si leggono velocemente, quando hai bisogno di un momento di leggerezza, io ritengo che anche quelli vadano bene. Poi, questo è un mio commento. Laura da Como ci scrive: il mio sogno è fare un libro per bambini, con una storia umile, ma con un inizio da supereroe, con una morale ecologica e morale e con disegni simpatici e divertenti. Cosa mi consigliate? Di cominciare a farla, no? Esatto, intanto cominciamo, esatto, se rimane lì. Andrea, tu dici, si mette lì? Con l'idea, perché non ci si deve sedere senza idee. Secondo me no. Vedi quante cose so di Andrea Vitali, le caviglie sottili. Bisogna scrivere, io ho ancora tante. E non svelo le altre. Ecco. Comunque, sì. Quindi l'invito di Andrea Vitali è: intanto cominciamo. Ecco, esatto, mettiamo in piemontese sarebbe da Tenandi. Ecco. E poi magari scoprire se ce ne sono altre in giro. Perché un'altra cosa spesso è: io ho avuto una grandissima idea, e poi magari le persone che vogliono scrivere anche un libro per bambini. I libri per bambini sono tantissimi, le case editrici ci sono. Bisogna però prima ben informarsi, averne lette tante. Scoprire magari quali sono le case editrici e provare, dopo averla scritta, come giustamente dice Andrea Vitali, è scritta bene, provare anche a proporle alle case editrici specifiche del settore. Allora, andiamo ai nostri ascoltatori. Mauro, Giulia e Antonio. Eccoli prima là. Giulia, secondo me. Sì, certo. Giulia è una donna, da Milano, cioè, buongiorno. Ovvio. Sì, ovvio. Buongiorno. Buongiorno a lei. Vada, Giulia. Sì, io volevo dire che appunto, anche se anche a me sembra una cosa molto strana, ho proprio in famiglia degli esempi di chi scrive senza volersi far leggere, nel senso che io ho il mio papà che qualche anno fa ha scritto il suo primo, chiamiamolo libricino perché comunque non è lungo, raccontando la storia della sua famiglia, della nostra, perché sì. Poi finisce con noi, così partendo da ricordi di una casa, una cosa ma forse un po' vista, però lui l'aveva fatto per se stesso e per noi di famiglia, noi abbiamo voluto a tutti i costi che almeno lo stampasse e lo regalasse almeno ai parenti, così, cosa che già lui non aveva particolarmente apprezzato. E tempo dopo ha iniziato, e adesso ne ha scritti altri due, invece sono proprio romanzi. Vedi? Infatti. Che ci ha preso gusto. Sì, Giulia. In realtà lui dice che l'ha sempre fatto, però non ce li faceva leggere. E però ecco, devo dire che il circolo di lettura rimane in famiglia. Allora, pensi Giulia che Carmen ci ha appena scritto: sto scrivendo la mia vita, poi vorrei che qualcuno ne facesse un'opera musicale. Però, qui abbiamo dei sogni. Un nome così. Mauro, buongiorno da Brescia. Buongiorno, sì, buongiorno, sono qua in viaggio in autostrada. Adesso si è fermato, fermo, ecco per fermo. Carità del cielo, non ci faccia venire questo patema. Ora fermo, sì. Ma in effetti io dicevo alle sue gentili collaboratrici che sono ormai penso un paio d'anni che io ho due creature, una di 12 e una di 8 anni, un bimbo e una bimba, e non c'è sera che manda il Signore che queste due creature non vogliano una favola, ma qualunque. E me ne sono inventato, perché poi si fa presto a terminare le favole, sì, diciamo storiche, le solite Biancaneve, Cenerentola, e quindi inevitabilmente devi andare a inventare, perché non c'è altra possibilità. Quindi ho spaziato tutto il mondo, tutto lo scibile, dagli gnomi, orchi, mostri, eccetera. E poi nel tempo, e ce n'è una nuova ogni sera, perché sono non te ne perdonano una, non è che se ricordi quella di Iago Punzen, per esempio, ah no, papà l'hai già detta, e quindi qua no, si può mica tornare indietro, devi inventarne un'altra. E così mi è capitato, ma curiosamente, ma solo per evitare di ripetermi, di scriverle. E ormai sarà qualche mese, 5-6 mesi, che ho deciso, nei momenti liberi ovviamente, la sera, magari tardi, dopo che ho raccontato la favola, che mi sono risvegliato anch'io, di mettermi a scrivere al computer. E poi a un certo punto, sentendovi stamattina mentre ero in viaggio, perché è così, ho detto: ma varrà mica la pena provarci? Vedi che l'abbiamo un po'. Non le mandi a noi, Mauro, perché non abbiamo la competenza, però si può scegliere. A me potrebbero fare comodo da leggere a me. Ottimo, allora, Francesco. Francesca Del Rosso le vuole, Mauro, quindi già un piccolo percorso queste favole possono farlo. No, chiediamo al nostro uomo però. Andrea, tu cosa dici? Lui dice: mi è venuta un po' la voglia, le ho scritte, me le ho scritte per i miei bambini, adesso però ci ha preso gusto, e mi butto o non mi butto? Qualche altro papà in difficoltà. Bisogna con la passare fantasia. Da questa produzione squisitamente familiare a una produzione, diciamo, industriale, quindi mettersi nell'ottica di seguire anche i consigli che sono stati dati prima, quindi capire se vale la pena, e se vale la pena, uno, se è convinto, accettare poi dopo però i suggerimenti degli esperti. E secondo me comunque a prescindere appunto dalla lettura più nazionale, riuscire poi a scriverli, metterli a stamparli bene con delle belle immagini, magari fatte direttamente dai tuoi figli, e poi regalargliele magari quando compiono 18 anni, potrebbe essere il regalo più bello di una vita, Vabbè. Allora sì. Mauro l'abbiamo bello di una macchina. Sì, Mauro è l'autore delle favole per i suoi bambini, direi di sentire Antonio. Avremo anche un altro ospite, ma per non perdere questa bellissima testimonianza, posso salutarlo e chiedergli se ha pazienza di aspettare per le 12:10? Sì, certo. Luca Falco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luca Falco, io ve lo presento, però poi la sua storia ve la faccio raccontare dopo il giornale radio, perché lui è il presidente dei manutentori della Confartigianato. E voi direte: cosa ci sta a fare di mezzo? Perché lui si occupa di caldaie, impianti di riscaldamento, e noi negli anni passati lo invitavamo tante volte a Salvadanaio perché ci raccontava le regole della manutenzione, quindi grandi battaglie con i nostri ascoltatori. Anche Luca ha avuto una disavventura di salute e in questo anno l'ha impiegato per scrivere un bellissimo romanzo che la scorsa estate mi sono divorata in 2 giorni, per cui l'ho già detta la storia, però poi ci deve raccontare un po' meglio, no Falco? Sì, va bene, volentieri. Perfetto, aspettiamo allora un po'. Intanto che Luca Falco sta lì, noi andiamo da Antonio che ci chiama da Bari. Esatto. Antonio, pronto? Che deve essere telegrafico perché tra un minuto il giornale radio incombe. Io volevo soltanto raccontare la storia, io sono un medico, un pediatra, e con la passione della storia, e ho scritto una cosa per le mie 3 figlie femmine, cioè la storia dell'unica donna che ha partecipato alla spedizione dei 1000. E mi sono accorto dalla risposta che mi hanno dato le professoresse del liceo di mia figlia, che questa storia non la conosceva nessuno. È nato questo romanzo che un editore barese ha pubblicato senza costi per me, ed è stato un successo abbastanza clamoroso anche per me, perché in pochissimi mesi ho venduto 700-800 copie. Adesso c'è solamente il problema di fare il salto di qualità, nel senso che il problema grosso è la distribuzione. E quindi, diciamo, questa passione che sono riuscito a trasmettere non solo alle mie 3 figlie, ma anche diciamo agli studenti dei licei, delle scuole che hanno letto questo libro, necessita, come dire, una specie di aiuto in più. Una cosa è certa, che Antonio si presenta bene, ti fa venire voglia di leggerlo, no? Di questa eroina, vero? È molto intrigante e alluzzante. Antonio, ce ne mandi una copia? Perché così la leggiamo anche a noi. Che si è alluzzata Nicoletta, e quindi... Che così la facciamo leggere anche. Non avete mai sentito parlare che c'era una donna nella spedizione dei 1000? No. Ha messo a nudo chissà la nostra ignoranza. Che cosa ne ha passate, dice Andrea Vitali. Sarà stata trattata molto bene, invece. Una vera principessa, o no? Una su mille ce la fa. Antonio, grazie. Grazie. Andiamo a sentire il nostro GR, poi ritorniamo subito dopo insieme. Cuore e denari. Questo sono io. Poi inconsapevolmente sono diventato scrittore. È bello quando poi rileggi quei diari, li trasformi in documento, diciamo Word, perché proprio li passo io, no? E lì diventa bello selezionare le frasi, a volte ripulirle, perché un po' magari quando uno scrive un diario lo scrive anche, insomma, esagerando, no? Anche nelle parole, nei termini. Quindi, e lì diventa bello perché la terapia lì sta nel leggersi con distanza. Stacco, perché devi appunto registrare dei concetti che però tu hai scritto quando stavi bene, stavi male, eri divertito, eri triste, e scoprirti da osservatore. Ti verrò a prendere con le mie mani. L'avete riconosciuto, Tiziano Ferro? Scrivere per piacere, scrivere per passione, scrivere come terapia. Intanto la nostra Wondi ci saluta, ma prima di salutarci... Ma vorrei ricordarvi questo hashtag per gli amanti di Twitter, che è hashtag Wondi sono io, per ricordare a tutti che siamo tutti un po' dei mini supereroi, ognuno in qualunque momento della propria vita, non necessariamente quando, anzi spero proprio che non incontri il cancro, ma può essere anche in altri momenti, può scoprire di avere dei superpoteri e tirarli fuori. Quindi siamo tutti un po' Wondi e quindi abbiamo deciso di inventarci la copertina sul viso con un bel sorriso smagliante oppure una birra, insomma ognuno può fare quello che vuole. Se la piazza si guarda anche tutto platinato, perché in copertina io ho un bel biondo platino, e si scatta una foto. Se ce la vuole mandare, vuole metterla su Twitter con Wondi sono io. Grazie a Wondi, che tra l'altro se volete vedere carne fatta, ossa, bella bionda, bella, sì, sorridente, ricaricante, eccetera, la potete vedere domani sera, proprio da Dario Barbariche Bignardi. Perfetto. Va bene, grazie, arrivederci, grazie a buona lettura a presto, tutti. Ciao. Grazie, molte grazie di tutto. Ricordiamo sì, che tra poco sì, è arrivato impegno, il momento di Cuore, Denari e Vitali, perché siamo, non è che lo abbiamo invitato così veramente per fargli prendere parte a questo harem. Noi, dove lui noi ci sta siamo molto inventati volentieri questa cosa per averlo. Sì, sì, e viene anche volentieri perché, guarda un po', qua tutti i giovedì ormai è diventata per lui una sorta di tassa. Siamo diventati un po' una città fuori porta. Esatto. Tra l'altro, questa formula un po' del racconta quattro mani alla radio, una bella idea, diciamocela, perché c'è uno scrittore e poi certo, gli ascoltatori possono completare. Però è una formula nuova. E soprattutto un po' insolita, soprattutto per te che sei uno scrittore navigato. A parte noi, il fascino di Deborah e dell'Anico, che cos'è che ti ha alluzzato e ha detto, ma sai che cosa ti dico? Questo alluzzare... Sì. Intrigato, ormai... un po'... Sì, spinto. Niente non di più che il tiepido vostro fascino. È vero. Niente di più che di quello. Senti, io poi non so sì, chi, allora, come, chi vuoi essere tu? Ti do solamente allora, sì, due facciamo, nomi. Esatto. No, tu non devi aprire. Tu non devo. Devi, ecco, voglio. Allora, mi godo solo la copertina più dell'ultimo. Giovenca o Zemia? Zemia, ti prego. Ti piace di più Zemia? Con la M, tra no, l'altro. Zemia. Con la M di Milano. Ah, sì. Zemia. O Giovenca? No, devo fare. E allora, se chi devo, vuoi? Chi vuoi? Faremo Giovenca. Allora, hai scelto bene perché Giovenca è bella, alta, bionda, appariscente. Sì, Zemia sì, invece, sul che nome tocca, potevamo lavorare Zemia un invece, che tocca farla a me, è brutta, e incontrarla di notte c'è da credere che i morti ogni tanto uscissero dalla tomba. Chi sono? Giovenca e Zemia sono le due sorelle? Le due sorelle o sorellastre ficcadenti. Della premiata ditta. Della premiata ditta sorelle ficcadenti. Esatto, e quindi l'ultimo lavoro di Andrea Vitali. Bisogna fatica tirarglielo fuori dalla bocca a proposito ma dei denti. Ma io non sono qui per vendere. No, no, però non per mancherebbe voi, altro, guarda. Però l'ultimo libro di Andrea Vitali, esatto, fresco fresco, che ce l'abbiamo qua in mano noi, che lo stiamo toccacciando. E questi due nomi teneteli bene a mente perché ne dovrete fare uso nel completamento dei racconti di questa settimana. Ma direi che su tutto questo alziamo il velo tra poco. Certo. Possiamo andare a salutare. Allora, certo, mia bella Giovenca. Questa sarà la tragedia della settimana perché gli ascoltatori non sanno che ne abbiamo una settimana e qua abbiamo inaugurato, vabbè, quella di questa settimana. Allora ci sono Giancarlo dalla provincia di Milano che vuole raccontarci, immagino, le motivazioni per cui scrive o ha iniziato a farlo, vorrà iniziare a farlo e magari cercherà di capire se sono lavori che possono essere pubblicati o meno, quali strade prenderà, ma avevamo preannunciato nell'altra parte di Cuore e Denari l'intervento di Luca Falco che torna a salutare. Luca, buongiorno. Buongiorno a tutti, devo ormai chiamarvi Giovenca e Zemia o... senti, lo vedi? No, andiamo sul consolidato, Luca, per carità del cielo, perché qua se no gli ascoltatori si sbizzarriscono. A me piace molto la qualità di Giovenca, alta, bella, com'è che era Nicoletta. Sul nome diciamo che Andrea, non so, poi ci racconterà come si è lasciato ispirare e da che cosa. Luca, quando ieri l'ho chiamato per intervenire alla trasmissione, mi ha detto sono davvero emozionato, perché immagino che questo sia stato, Luca, un periodo molto complicato. Io gli do del tu perché ormai è un amico, è intervenuto tante volte in passato a Salvadanaio per parlare di problematiche molto concrete delle famiglie, la revisione della caldaia, ce lo ricordiamo. Detto questo, che cosa è successo in quest'anno complicato? Che cosa è successo in questo anno complicato in cui ha preso vita la vita, la vite e la rosa? Allora, io ho avuto una disavventura sanitaria per un'operazione molto stupida, un'errata manovra da parte di un medico mi ha costretto quasi 4 mesi a letto e spero di concludere il mio percorso martedì 4 marzo con l'ultima operazione. Quindi insomma sono ancora in via di... Ancora in ballo, guardione, come si dice alla milanese, ecco. Allora, mi è successo che io ho una bellissima famiglia che mi è stata tanto vicino, quindi però a un certo punto mi sono sentito scivolare in una specie di imbuto, non riuscivo a vederne un'uscita. E ho avuto la fortuna di riprendere in mano degli appunti storici che avevo raccolto sul mio territorio, di cui io sono tremendamente innamorato, e sono stati il mio pensiero felice, cioè come Peter Pan. Semplicemente ho ripreso a volare, mi sono messo a seguire questi appunti e davanti al mio tablet ho iniziato a creare una storia. E il concludere questa storia ha fatto sì che mi desse una motivazione in più, perché ne avevo tutti che mi stavano vicino a far sì che cercassi di ritornare quella persona energica che abitualmente ero, però non riuscivo a vederne un'uscita. E quello è stato la scintilla, qualcosa di esterno, per cui ho riversato in quelle parole, in quelle immagini, dei sentimenti, dei ricordi di ciò che in quel momento non potevo vedere, per cui le descrizioni dei tramonti piuttosto che dei territori sono stati... Questo romanzo infatti è ambientato tra Liguria e Piemonte, la protagonista è una giovane archeologa che incontra Tracchi, non so perché a queste protagoniste capiti sempre questa fortuna, un finanziere lombardo con il quale intreccia un'avventurosa ricerca di un antico papiro, giusto Luca? Esatto. Tra l'altro ci sono anche delle similitudini con fatti anche accaduti, no? Sì, perché io mi sono ispirato, allora tutto ciò che di storico è ricordato nel libro è vero, ho cercato anche di omaggiare alcuni personaggi reali, come per esempio c'è stato il parroco di Prea, una piccola frazione di Roccaforte in Mondovì che è scomparso, che in parte mi ha ispirato a quel fatto, è scomparso senza lasciare traccia, quindi è stato anche un modo per omaggiare delle persone che mi stavano nel cuore, nei pensieri. Quindi... Luca, dobbiamo ritornare anche un po' al tema di oggi, è stato difficile la pubblicazione di questo libro, hai dovuto convincere a fatica un editore a prenderlo in considerazione, oppure ti sei rivolto alla modalità del self-publishing, hai fatto tutto da solo? No, io ho inviato il mio testo a due editori e praticamente, obiettivamente, il primo che mi ha risposto e mi ha proposto la pubblicazione gli ho detto di sì. La risposta è stata anche molto breve. Io credo di essere stato fortunato, perché nel panorama degli scrittori è vero. Io che sono insomma sfortunato un po' per l'operazione, ma vedrà che adesso tutto si rimetterà a posto con i nostri auguri, e invece più fortunato nella pubblicazione. Grazie a Luca Falco, lo ricordo, La vite e la rosa. Grazie a voi. Grazie. Allora, tempo di Cuore Denari Vitali. Certamente. Abbiamo selezionato i racconti della scorsa settimana. Abbiamo un racconto selezionato per il cuore e uno per l'incipit dei denari. Allora, per i denari? Per i denari si aggiudica, diciamo, questa tornata del nostro percorso con Andrea Vitali, Carlo Benetti. Il racconto è abbastanza articolato, però credo che sia stato appunto nelle righe contemplate per partecipare. Bravo Carlo. Esatto. Invece il vincitore di cuori? Mentre il vincitore di cuori è Bernardo Risino. E naturalmente potete trovare i racconti, quindi l'incipit di Andrea Vitali, Per cuore per denari, e il racconto completato dall'ascoltatore sulla pagina di Cuore Denari. E allora Andrea, insomma, anche adesso tocca a te, perché come ogni settimana due incipit e poi via l'invito ai nostri ascoltatori a completare con in 24 battute. Certo. In 24 righe, scusate. Vuoi leggerla dato che sei qua? Cominciamo con l'incipit di cuore? Ecco, attenzione che sei un po' sotto esame, perché sì, gli esami non finiscono mai. Lo so. Quindi ma ho portato bene la giustificazione della mamma. Leggi bene. Sì. Ecco, vai. Nel mondo parallelo della psichiatria, due viaggiatori su un treno ad alta velocità si trovano ad avere lo stesso posto prenotato. Come d'uso, si scambiano qualche parola e mezzi sorrisi, ciascuno però pensando che il posto sia suo di diritto. Nessuno dei due osa sedere. Sarebbe una prevaricazione fuori luogo in un ambiente tutto sommato elitario. Per comune decisione viene consultato il capotreno, giudice inappellabile, costui, guardati i biglietti, solleva il cappello spingendolo dalla visiera. Brutto segno, Re Salomone non avrebbe potuto essere combinato peggio. Inspira e invoca San Cristoforo, patrono dei ferrovieri, e costui lo illumina. Uno dei due biglietti ha la data del giorno prima. Comunicandolo al viaggiatore, il capotreno si sistema il cappello. Il viaggiatore prende atto dell'informazione e sorride beato perché... Questo è l'incipit della parte del cuore. Naturalmente vi invitiamo a completarlo con le 24 righe, ma all'interno di queste righe dovete mettere un nome. Sì, quale scegliamo? Zemia, perché è il tuo, giusto? Quindi per completare l'incipit di cuore dovete mettere il nome di uno dei personaggi dell'ultimo romanzo di Andrea Vitali, e qui in questo caso abbiamo Zemia con la M, perché avevo capito la N di Napoli, invece con la M di Milano. Andiamo a quello di Denari. Nel mondo parallelo del sesso per denaro, un uomo frequentava di tanto in tanto una casa d'appuntamenti, era sempre riuscito a farla franca e per quanto concerne la presente storia sempre riuscirà. Se non che una sera, dopo aver esaudito il suo turpe appetito, si ricordò che in quel giorno sua moglie compiva gli anni. Disperato perché ormai era tardi e tutti i negozi erano chiusi, negandogli la possibilità di presentarsi in casa anche con un misero mazzo di fiori, vide, mentre cercava le scarpe finite sotto il letto, una collanina che gli sembrò d'oro e se ne impossessò furtivamente con l'intenzione di spacciarla come regalo. Così infatti fece, per la meraviglia della moglie che, una volta scartato il raffazzonato pacchetto, se ne uscì dicendo... Qua sbizzarritevi ad inserire nel completamento di questo incipit il nome Giovenca, e questa me la voglio leggere tutta la prossima settimana, cara. Non dovete far altro che andare sulla pagina di Cuore Denari e iniziare a scrivere. Ma ti senti bene? È abbastanza, Andrea? Mica tanto. Perché in linea con noi abbiamo un amico che ieri ha rimandato Andrea Vitali, le ha un po' tirate le orecchie. Vediamo se oggi come sei andato. In linea con noi abbiamo il piacere di avere Bruno Gambarotta. Ciao Bruno. Ciao, ciao Andrea. Buongiorno maestro. Buongiorno maestro. Senti, allora dovete sapere che io ho tutti i libri di Andrea Vitali. Bravo. Perché lui me li ha mandati tutti con dediche affettuosissime. Adesso aspetto che arrivi anche quello di Rizzoli. Poi sta arrivando. Ho saputo che ce ne sarà uno da Garzanti. Ho saputo che ha già firmato contratti per i prossimi 7 romanzi. e quindi sono felice. Ma bisogna fare una mensolina in più. Allora, sì, li ho tutti. Tieno tutti una mensolina. Sono in ordine di uscita. Sono uno più divertente dell'altro. Ieri mi sono divertito un po' a prenderlo in giro, perché quelli del 20 febbraio mi sembravano delle barzellettine, invece questi sono molto divertenti, molto belli questi. Otto. Molto belli perché dai, tra l'altro... Quindi rimandato e adesso un po' recuperato. No, tra l'altro questo qui allora, quello che ha il biglietto del giorno prima, che sorride beato, è una bella trappola, perché in realtà io mi sono trovato in questa esatta circostanza in cui avevo il biglietto il giorno prima. E ho pagato da Torino e Milano sul Frecciarossa la bellezza di 50 euro. Sì, quindi. Perché l'agenzia di viaggio si era proprio sbagliata data. E quindi, anziché essere beato, io ero fuori dalla grazia di Dio, perché poi nessuno quella cifra lì me la... Io viaggiavo per lavoro, ma quella cifra lì nessuno me la rimborsava. Perché sorride beato? Perché probabilmente il suo è il suo inconscio, no? Che lui questo viaggio lo faceva molto malvolentieri, l'avrebbe dovuto fare ieri, e il suo ex lo ha spinto a farlo oggi, quindi in qualche modo lo ha salvato. Lui andava in qualche posto dove avrebbe fatto un incontro molto sgradevole, probabilmente avrebbe dovuto rivedere la moglie, parlare, ecco, di niente. Catturate questi spunti, catturati, perché insomma sono spunti d'autore. Esatto. Infilateci dentro Giovenca e Zemia e abbiamo fatto tutto. Senti, l'idea della collanina raffazzonata, rimediata sotto il letto e trasformato in un regalo straordinario. Insomma, a me è fatto venire in mente quel capolavoro di Rossellini, che è il generale della Rovere, quando De Sica, che ha tolto da una casa di piacere la sua amichetta, le ha regalato delle cose che in realtà non erano autentiche, poi gliele sottrae per andarle a portare al Monte di Pietà, perché è un giocatore incallito. Ecco, questa storia è affascinante, non saprei come continuarla per, così a caldo. E comunque, insomma... A meno che la moglie a sua volta non abbia, non so, questa collanina potrebbe essere stata vinta... Ma... Con dei punti. Ma Bruno, ma partecipa al nostro, sì, alla nostra iniziativa, che li sbaragli tutti, no? Sì, no, che te ne... Andrea, quindi oggi è andata meglio, dai, oggi 8. Oggi benone. Io mi ero preparato una giustificazione in rima, maestro Gambarotta, per farmi perdonare e farmi riammettere a scuola. Posso? Sì. È una prece. Sì. È una prece. Una prece, posso? Vado al buon maestro Bruno Gambarotta, che a volte premia e a volte mi rimbrotta, e che conosce il mondo e la sua gente, chiedo che a questo allievo inadempiente, che vuol tornare ad essere diligente, conceda il beneficio dell'errore umano, mi dia maestro ancora la sua mano e faccia che la stroncatura non sia definitiva bocciatura. Grazie, stupendo. Ma allora vale la pena stroncare sempre. Dai, tutti bravi, giorni. Bruno, se tutti fossero così riconoscenti, infatti, ma tu che per guadagnarci anche una recensione di Bruno Gambarotta, cosa abbiamo dovuto fare, Nicoletta? Mamma mia, noi siamo felici. Comunque è una bellissima idea questa, gli incipiti di Andrea Vitale. Grazie, grazie Bruno. Maestro. Grazie. Ma non li leggete in audio, si possono, i vincitori, dicono. Si trovano solo su internet, giusto? Sì, sulla pagina di Cuore Denari, così, sul sito così di Radio 24. Anche tu vai a vederci sulla pagina. Sì, bisognerebbe forse, ma poi si farà un libretto, secondo me. Abbiamo questo obiettivo, ma è una sorpresa, maestro, non possiamo svelare più di tanto. Ma io sono già l'editore, sono già tutto. Grazie. Lavorando qua non è che sia molto grazie difficile. Grazie Bruno, torna presto. Arrivederci. Grazie. Grazie, allora. Esatto. Oh, noi dobbiamo salutarci. Mamma mia, oggi è volato. Cara la mia giovenca. Buongiorno e grazie alla dottoressa Luisa. Grazie, buongiorno, ad Andrea Vitali, grazie, a uno dei prossimi giovedì che oggi finalmente è stato promosso. Esatto, dai. Gli esami d'altronde non finiscono mai e noi saremo qua pronte domani come sempre a fare il nostro esame quotidiano dalle 11 con Cuore Denari alle 12.30.